Camminiamo nella nebbia di questa città, con questa gente che ride, sembra una favola. Io sono quello diverso, sono quello che si evita. Hai fatto caso, siamo tutti meno liberi, leggeri come veleno in fondo ai vicoli. Io sono quello che ieri aveva in mano l'America. Gratta e vinci per perdere le stelle, le guardi solo se hai il naso fra le nuvole, tra i palazzi coi graffiti, persi in questa Gotham City. Ma balla, balla, amore, amore mio, balla, balla, e mentre piangi sorridi e vivi. Siamo così complicati io e te, ma che ti frega del mondo, e balla. Amore mio, vieni più vicino, vieni vicino a me, perché son tutti quanti uguali, ma nessuno è uguale a te. E ci lasciamo e ci prendiamo senza regola, con questo traffico d'amore, Pablo Escobar. Io sono quello diverso, quello che non ti dimentica. Una monetina nel cielo scintilla e cambia il mio destino mentre piove solitudine. Tra le mani un altro poker e ad un semaforo c'è Joker. Ma balla, balla, amore, amore mio, balla, balla, e mentre piangi sorridi e vivi, come ci siamo bruciati io e te per questo cazzo di mondo, e balla. Amore mio, vieni più vicino, vieni vicino a me, perché son tutti uguali, ma nessuno è uguale a te. E nella casa degli specchi dentro al Luna Park, le luci viola sparate ti fanno ancora più bella, bella, con gli occhi lucidi, balla, balla, che oggi il tempo si ferma e resta solo un secondo, balla, e mentre piangi sorridi e vivi, vieni vicino a me, perché son tutti quanti uguali, ma nessuno è uguale a te. E camminiamo nella nebbia di questa città, nemmeno un raggio di sole